Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, se l'Inter stasera passa a Stamford Bridge può anche cominciare a pensare alla finale. Se esce deve seriamente badare a salvare almeno il campionato. Le vigilie, cominciando da quella di Mourinho. È una partita di Champions, una partita speciale, una partita dove tutto finisce per una squadra e dove il sogno continua per un'altra squadra. Sicuramente una partita di gran livello, qualche volta no di grande livello tecnico, però sicuramente di gran livello tattico, di intensità, psicologicamente, di emozione. E la mia squadra sta preparata per fare questa partita e ovviamente io preferisco stare con la mia squadra vicina a lei, sia in panchina, sia in spogliatoio prima e nel mezzotempo, chi stare lontano. È mia casa, è come tornare a casa e ovviamente non è lo stesso che andare a giocare al campo del Manchester o al campo dell'Arsenal, è una situazione diversa. E questa è la vigilia di Mourinho, sentiamo quella di Carlo Ancelotti. Noi non abbiamo nessuna ossessione, noi sappiamo che dobbiamo vincerla questa partita qui, che abbiamo una partita intera per poterla vincere. Credo che il discorso che questa squadra segna con facilità non è una cosa per noi da sottovalutare, sarà molto importante, credo, in questa partita difendere bene, questo sì. Penso che la flessione che abbiamo avuto sia passata, abbiamo giocato bene sia la partita di andata con l'Inter sia la partita di sabato, penso che arriviamo bene. Tarbel l'ha giocato sabato, ha giocato bene, con fiducia, con personalità, abbiamo totale fiducia in lui e quindi per questo non prendiamo nessun rischio su Cech, né su Cech né su Ilario. E allora come sta il Chelsea? Soprattutto come sta oggi rispetto alla partita d'andata? Meglio o peggio? Lo domando a Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Beh, sta in crescita secondo me, sta abbastanza bene, lo ha detto Ancelotti, ha ragione. Il Chelsea ha avuto una flessione ma ha anche avuto una ripresa che è coincisa sia con la gara d'andata che poi con le partite successive. Quindi credo che l'Inter si troverà di fronte l'avversario che pensava di trovarsi di fronte, cioè una squadra che sta bene, una squadra tatticamente disciplinata, una squadra non eccessivamente inglese, quindi non una squadra che la assalterà da subito. È probabile che la prima mezz'ora sarà una mezz'ora di studio, sarà una mezz'ora di schermaglie, poi magari poi decideranno o le prodezze o gli errori individuali dei giocatori, però la sensazione è che si vada verso una partita molto, molto tattica, molto scacchistica quasi, nella quale gli allenatori credo cercheranno di non rompere equilibri tattici consolidati già dall'inizio. Poi dipende da come si metterà, lì l'evoluzione della partita è imprevedibile. Però la sensazione è davvero che i due allenatori vogliano giocarsela sul filo del massimo equilibrio e quasi vogliano lasciare all'altro la prima mossa. I bianchi li ha in mano Ancelotti perché gioca in casa e perché è costretto a vincere. Lui ha detto che gli basterà vincere, non è vero, perché se dovesse vincere 3-2 basterebbe l'Inter. Però credo che comunque lui intendesse una cosa diversa, insomma non dobbiamo star qua a fare l'esegesi. No, esatto. Cioè, gli può bastare vincere, ma gli basta vincere 1-0 sono 2-0, tutte le altre diventano problematiche. Senti, sulla base della partita dell'andata, allora le differenze che riguardano il Chelsea sono solo due. Intanto non era possibile recuperare Cech, lo si è visto, non era possibile recuperare Sien, come invece allora ancora si sperava, e quindi rimane Mikel il perno centrale, diciamo, del centrocampo arretrato. Le variazioni sono questo terzo portiere, che certamente non vale il primo, ma sarà sempre meglio del secondo a occhio, ma poi questa è una domanda per te, e Zirkov, il russo che rientra sulla sinistra e che dovrebbe riequilibrare un tantino la sistemazione, il governo di quella fascia che era stato un po' il punto debole nella gara d'andata, soprattutto dopo l'ingresso di Balotelli. Sì, anche perché poi Ancelotti lì era stato costretto a retrocedere Malouda in una zona meno sua e quindi lo aveva indebolito facendolo giocare in una posizione non consona e lo aveva perso nelle sue capacità, attitudini migliori. Zirkov è un giocatore di buon buon livello, nemmeno lui è però la prima scelta di Ancelotti, perché in quella posizione deve giocare, dovrebbe giocare Ashley Cole se stesse bene, e le assenze nel Chelsea sono assenze importanti da questo punto di vista. Sono d'accordo con quello che scrive Enrico Sacchi stamattina, cioè che complessivamente la difesa del Chelsea sia individualmente molto forte, ma non sempre perfetta nell'organizzazione collettiva, e che quindi l'Inter possa andarla a colpire esattamente lì. Sulla questione Balotelli immagino gli ascoltatori si siano già esercitati ieri e lo faranno anche oggi. A maggior ragione oggi. Ecco, credo che quello potesse essere, ma proprio perché l'aveva detto lo stesso Ancelotti, un giocatore capace di far saltare il banco, però qui stiamo davvero parlando inutilmente, perché Balotelli non c'è, quindi. Certo. Oh, parliamo dell'altra. Una cosa su Tarball che mi avevi chiesto. Tarball è certamente una variabile quasi impazzita, nel senso che non è la prima volta che le squadre inglesi devono affrontare un match importante con dei portieri a volte improvvisati. Tarball ha una carriera abbastanza breve, ha giocato la penultima stagione nel Middlesbrough, è arrivato a fine contratto col Middlesbrough e lo ha preso il Chelsea. Certo, Ilario è parso molto molto indeciso. Devo dire che Ilario aveva già avuto qualche esperienza a livello alto di Champions League, nella quale non se l'era cavata neanche poi malaccio. Visto le ultime volte però è sembrato veramente arrugginito. Io credo che Tarball possa essere un bel vantaggio per l'Inter, perché costringerà la difesa del Chelsea a non essere mai sicurissima. Certo. E questo per gli attaccanti è un grande vantaggio. Ah, sicuro, visto che un gol fuori casa, non dico che risolverebbe del tutto la qualificazione, ma insomma certamente la semplificherebbe assai, perché a quel punto per andare fuori dovreste perdere 3 e come minimo invece ti potresti giocare i supplementari se anche ne beccassi 2. Tutti i discorsi di prima che contano molto poco. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli, domanda tutto sommato interlocutoria, perché poi c'è di meglio, però è dovuta. L'altra partita di stasera, Siviglia CSKA 1-1 all'andata, quindi... Ma quindi Siviglia, credo, nel senso che l'incognita delle russe a questo punto della stagione è a che punto staranno dopo aver fatto questo lungo letargo e la ripresa del campionato appena iniziata. La sensazione è che Siviglia ormai stia giocando per questo, cioè che si stia preparando solo per questa partita, quindi sensazione netta è che Siviglia sia favorito, ma questo lo dice il risultato dell'andata. Stiano attenti però, perché anche il Real Madrid era molto favorito nei confronti del Lione e non è riuscito a... E sappiamo com'è. Sì, anche se il Real avrebbe dovuto ribaltarlo il risultato, invece Siviglia può passare anche con uno 0-0. Certo, certo. Però, se mi dai 30 secondi, ho appena visto sulle TV inglesi, su Sky B, le immagini dei giocatori dell'Inter insieme a Mourinho a passeggio in centro a Londra. Ad Hyde Park, sto leggendo l'agenzia, esatto, adesso, sì. Ad Hyde Park, sì, di stamattina. Esatto, insomma, sensazione visiva di una squadra molto serena, anche l'allenatore molto sorridente, non... Un allenatore che sembra a casa sua, perché effettivamente sì, è stata a casa sua. Beh, poi qualche sito stamattina è tornato a dire se Mourinho esce agli ottavi di finale, come se fosse Mourinho e non l'Inter, ma sì, comunque ha voluto Mourinho e questo è. Se esce agli ottavi di finale l'anno prossimo non sarà più allenatore dell'Inter e tante cose che ormai abbiamo già sentito. Vabbè, non c'è nemmeno Balotelli in qui nell'ambiente, quindi insomma la serenità, no, è, la serenità è conseguenziale. Sì. Insomma. Sì, sì. Campionati. Allora, scrive un ascoltatore, Mario Scaria da Milano, e dice vorrei far notare come i maggiori tornei europei si siano livellati con uno scarto massimo fra la prima e la seconda in classifica di soli 2 punti. Allora, prendo i campionati, cominciamo dal nostro, dove effettivamente il Milan è un punto dall'Inter. In Inghilterra, United 66, Chelsea Arsenal 64. In Spagna, Real e Barcellona 65. In Germania, Bayern 56, Schalke 54, Leverkusen 53. In Francia addirittura Bordeaux e Montpellier 53, Auxerre 52, Lille, Lione 51, Marsiglia 50. È, se pensiamo agli ultimi anni, una rivoluzione copernicana globale, direi, Fabio. Sì, ma era per il mio assurdo che ci fossero stagioni nelle quali 3 campionati su 4 si decidevano per proprio per distacco netto, abbondante. Questo era successo all'Inter, tranne una stagione, quella con la vittoria di Parma, ed era successo tante volte al Lione in passato, anche il Bordeaux l'anno scorso aveva comunque vinto bene. Quest'anno il campionato francese è pazzesco, ma devo dire che tranne in Inghilterra, dove le tre davanti stanno bene o male procedendo più o meno allo stesso passo. Negli altri campionati, a parte la Spagna che comunque è un campionato diverso perché lì ci sono solo due squadre e comunque faranno una volata gomito a gomito, in Francia e in Germania assistiamo anche a delle frenate e a delle occasioni mancate, così sì. Come in Italia, sì. Cioè in Italia c'è una frenata dell'Inter, certo. Evidentissima, in Francia c'è il Bordeaux, ha frenato decisamente, nettamente, lo stesso Montpellier che ha pareggiato una partita che avrebbe potuto vincere contro l'Auxerre, lo stesso Auxerre che è andato a vincere in casa del Bordeaux nel recupero, cioè tutta una serie di risultati che hanno fatto sì che come dire, il rallentamento della maglia rosa, della capolista, abbia ritirato sotto tutte le, sì, tutte sì, le ma seguitrici. È vero, il valore lo dimostrano anche i punteggi che sono assai più alti in Spagna e in Inghilterra a parità di giornate, sì, sì. Grosso modo, mentre sono bassi 5 punti reale, cioè lì il distacco è sulla terza, il distacco sulla terza è imbarazzante in Spagna, ma solo lì, perché invece dalle altre parti no. Punteggi medio-bassi in Germania e in Italia e più bassi ancora in Francia. Parliamo di Messi e di Higuain. Allora, tre gol del solito fenomeno del Barcellona, tre gol dell'altro argentino del Real Madrid. A me, al di là di quello che sta accadendo in Spagna, che insomma poi è più o meno risaputo, a me fa un pochino impressione, perché se a Messi e Higuain aggiungi Milito potresti avere l'attacco dell'Argentina al Mondiale, fermo restando poi che non giochi Martin Palermo, perché il CT sappiamo che ha le sue, no? Le sue fisime. Però, sì, sì, ma poi c'è Tevez, cioè ce ne sono altri che in attacco possono far bene. Il problema dell'Argentina è altrove. Il problema dell'Argentina è un po' dal numero 1 al numero 6, mettiamola così, se fossimo in anni passati, e anche un po' di chi li mette in campo, nel senso che comunque Maradona grossi segnali di equilibrio a questo punto di vista non li ha mai dati. Ora, io trovo che l'Argentina spesso sia la squadra più forte, anche nel 2006 io trovo che fosse una squadra fantastica, poi è andata fuori a rigori con la Germania, non mi stupisce. Però se tutti ci ricordiamo, dopo aver visto la Confederations Cup del 2005, nessuno pensava che il Brasile non potesse vincere quel mondiale, invece sono andati fuori contro una Francia vecchiotta, e quindi questo significa che davvero si gioca a calcio dall'1 all'11, se hai forti solo dal 7 in poi può essere che tu faccia un sacco di gol, ma rischi di prendere. L'Argentina non ha una difesa degna del suo centrocampo e del suo attacco, anche a centrocampo. Maradona fa delle scelte che sono molto discutibili, giocatori come Cambiasso sono trascurati, quindi vedi, ma possiamo dirlo di molti altri commissari tecnici, perché insomma, cioè, credo che anche in Italia si discuta tantissimo se sia il caso di portare alcuni giocatori o meno, però insomma, credo che il mestiere del commissario tecnico sia uno dei più complicati da questo punto di vista, quindi facciamolo fare a loro. Certo, il nostro ha appena rilasciato le dichiarazioni a cui darò spazio più tardi. L'ultima notizia di oggi è arrivata stamattina da Lussemburgo ed è una notizia estremamente interessante. La società calcistica che ha formato un giocatore può chiedere un'indennità se quel calciatore conclude poi il suo primo contratto da professionista con un club di un altro stato membro. Questa è la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE del Lussemburgo, chiamata a pronunciarsi sul caso di Olivier Bernard, giovane promessa dell'Olympique Lione, poi ingaggiato da professionista alla squadra inglese del Newcastle, eccetera eccetera eccetera. Poi si arriva all'importo dell'indennità, insomma, e se ne parlerai, direi, domani o dopo con più calma e con più approfondimento giuridico con Marco Bellinazzo, che sapete essere l'esperto del Sole 24 Ore, che mi aiuta in questo genere di argomenti. Però Fabio, da Bosman in giù mi sembra, letta così, mi sembra la prima breccia che si crea per interessante, no? per salvare da un punto di vista giuridico il diritto di chi il calciatore l'ha fermato e poi se lo vede rapinare da bambino, cioè è una norma antipedofili del calcio, poi teniamoci che è molto, no? Cioè, lo si dice in maniera scherzosa, ma insomma qualcuno aveva accusato, no? Per esempio Wenger e l'Arsenal di questo reato calcistico, ovviamente. Sì, anche perché Gigi, noi tutti poi veniamo a conoscenza solo delle missioni concluse positivamente, cioè dei giocatori che diventano forti e capaci, sì, e che quindi si fanno una carriera, ma di quelli sradicati, mi ricordo giocatori che portati al Torino e poi chissà dove lasciati andare. Cioè, Treganesi, certo. Ecco, il senso della tratta in molti casi era vero, perché comunque procuratori o mediatori o intermediari o cialtroni in alcuni casi, che prendono vagonate di ragazzini, li fanno sognare e poi ne tengono uno su 100 e gli altri 99, poi noi ce li dimentichiamo, però sono 99 persone con la loro vita, magari grama. E l'indennizzo ai club mi sembra una cosa ovviamente intelligente, ovviamente interessante, ovviamente da normare in tutte le possibilità. Io trovo che la sentenza Bosman abbia fatto dei disastri in altri sport e che il calcio, solo il calcio, sia riuscito ad attutirla. Trovo che nel basket ad esempio abbia fatto dei danni inenarrabili. Sì. Questa mi sembra invece una norma giusta, anche perché va al passo con tutto il resto, certo, nel senso che è in una dimensione più coerente con la società. E domani ce la facciamo dettagliare e approfondire dall'amico e collega del Sole 24 Ore. Grazie Fabio. A voi, buona giornata. Chiudiamo questo collegamento con Fabio Tavelli. Torneremo a parlare di Coppa ovviamente giovedì nel riassunto della due giorni consueto. Sentiamo Salvatore, ha chiamato da Vicenza. Buongiorno. Buongiorno, che un minuto che dico tutto. Allora, ieri ho sentito la conferenza stampa di Mourinho. Un giornalista inglese gli ha detto cosa ne pensa degli arbitri italiani. Lui ha detto: non parlo del campionato italiano né degli arbitri, perché se no ne prendo altre tre giornate. In realtà io ho guardato fisso negli occhi Mourinho e telepaticamente ho letto quello che lui voleva dire. Ha detto che in Italia ci sono due arbitri buoni, ottimi, sono Rizzoli e Rosetti. Poi ci sono tre arbitri ottimi, buoni, che però arbitrano in modo qualche partita sporco, che sono Rocchi, Morganti e Staccani, e il resto degli arbitri tutti, diciamo... Salvatore, io ho l'impressione che lei abbia qualche diotria, se lei ha guardato, cioè non solo per il giudizio sugli arbitri, ma anche per aver letto questo negli occhi di Mourinho. Non credo che Mourinho possa aver pensato ieri telepaticamente, attraverso di lei, che Rosetti è un grande arbitro, visto che il regalo principale che ha avuto il Milan fino ad ora è stato il rigore non dato a Firenze, che ha cambiato la partita, cioè da una possibile sconfitta alla vittoria un minuto dopo, sicché non so se l'ha guardato davvero bene Mourinho. Proviamo a vedere se va meglio con il secondo ascoltatore. Sergio, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica, chiedevo Sergio. Questo. Si parla di un eventuale esonero di Mourinho nel caso venga... Non so dove, a Modena? Mi dica dove. No, lei in provincia di Modena esattamente dove? A Mirandola. Mirandola, nei dintorni di Mirandola, di cosa si sta parlando? Dell'esonero di Mourinho? No, si accennava non di un esonero in questa stagione, l'anno prossimo, di un cambio allenatore all'Inter. Già un cambio non è un esonero. Nel caso vada fuori con la storia di Balotelli, eccetera, eccetera. Io mi chiedo, se per caso, per sfortuna, lo Stoccarda facesse un gol a Barcellona, dopo la rivoluzione di mercato che c'è stata, nonostante la stagione fantastica dell'anno scorso, cosa succede a Barcellona, secondo lei? Non ho idea, cioè, anche perché faccio fatica, Sergio, a cogliere il nesso. Credo che comunque... Cioè, credo che se stasera andrà male, dovesse andare male a Stamford Bridge, comincerebbe, come dire, un serrato confronto all'interno della società Inter, più o meno a tutti i livelli. Credo che se stasera andrà bene, questo confronto verrà rinviato. Magari verrà rinviato sine die e non più fatto se per caso dovesse andare strabenissimo nella finale del Bernabeu del 22 maggio prossimo, la prima volta che si giocherà di sabato una finale. Se così non fosse, cioè in qualsiasi altro caso, credo che prima o poi un confronto ci sarà, e un confronto è difficile indovinare prima il punteggio, no? 1x2, io metto 1 fisso, però questo è tutto un altro discorso. Cesare ha scritto un messaggio: caro Gigi, a sentire telepatie varie sta ridendo che mio figlio di 6 anni, me lo immagino bene. Stavo curiosando tra le cose di oggi, e non so, qualcuno di voi avrà letto uno di quei favolosi racconti di Soriano sul rigore più lungo del mondo. Oggi si gioca una delle partite più corte del mondo, perché a Cesena si ricomincia dal 74esimo Cesena-Sassuolo, che è il recupero, il mini recupero di una partita sospesa per una bufera di neve venerdì 5 marzo. Da regolamento, non dico inedito, ma insomma da regolamento recente, si riparte dallo stesso punteggio e dal minuto in cui la partita si è sospesa, sicché 0-0 con 16 minuti e mezzo più recupero da giocare, e quindi con l'ovvia esigenza da parte di dei giocatori e degli allenatori di un lungo riscaldamento prima perché in quei 16 minuti e mezzo più recupero ci sarà a dare tutto, insomma. È un inedito per il nostro campionato, sia pure di Serie B. Gianni ha chiamato da Treviso, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Niente, io sono un suo fan da tanti anni e condivido moltissime addirittura volte fan sue interventi. Però io avevo una curiosità forse un po' provocatoria da chiedergli: come mai la vostra trasmissione si chiama Tempo di Sport quando dal lunedì a giovedì parlate solo di calcio e il venerdì solo di basket? Qualche intervento è sporadico e nel ciclismo magari sento qualche intervento, però per puntualizzare un corridore che risulta dopato e nient'altro, poco più. È una bella domanda, Gianni. Io sto cercando da anni di far cambiare nome alla trasmissione. A ogni rinnovo contrattuale a inizio autunno, o meglio a fine estate, io pongo il problema, per la verità già nella primavera precedente, dicendo: ma non potremmo un altro anno così deciderci una volta per tutte a riflettere se non altro se cambiare nome ad un programma, visto che io soltanto di calcio mi intendo, soltanto di calcio mi interesso da un punto di vista sportivo, poi la vita magari altrove, ma insomma qui da un punto di vista professionale, e quindi non ha molto senso continuare a chiamare questo programma Tempo di Sport. Ogni volta viene detto: vediamo, e questo accade. Questo per dirle che di sicuro non è colpa mia, capisco però che il titolo della rubrica sia improprio, e lo capisco bene, al punto che più di una volta, annualmente sollecito, questo glielo garantisco. Mi scusi Garanzini, scrive Giacomo, ma è vera la notizia della Polverini in curva con gli ultra della Lazio? Beh, è vera, sì, se no evidentemente non ne avrei parlato ieri, non avrei scritto sul Sole 24 Ore, non avrebbe parlato a lungo Giuseppe Cruciani ieri sera nel suo appuntamento della Zanzara. Non solo in curva con gli ultra, ma in curva scortate e riverite dagli ultra, e soprattutto seduta a cavalcioni su una transenna, no? in atteggiamento da, come dire, da guida o da ruffa popolo, scelga lei, secondo le peggiori tradizioni consolidate degli ultra. Dopodiché lei stigmatizza da un punto di vista politico, io non mi spingo ovviamente fin lì, non invoco certamente l'intervento del TAR, anche perché è intervenuto il BAR, mi sembra, no? Nel senso del Bari, che poi ho l'impressione che non abbia portato questo granché di buono. Ho letto che ci sono state ripercussioni anche da quel punto di vista, perché già in precedenza miglior sorte non era toccata alla Roma dopo una visita, ma perlomeno era una visita di cortesia, non era un atto di omaggio al nido delle aquile, no? Visto che sono gli aquilotti, gli ultra laziali. Alessandro Firenze, buongiorno. Salve, tocca a me? Tocca a lei, al momento sì, salve, Alessandro. No, sì. Non l'avevo individuato. No, io l'ho chiamata per questo, perché io non so, io sono un tifoso interista, anche chiami da Firenze, però io non sono convinto, come molti, come molta stampa e come la maggior parte dei tifosi, che l'Inter sia la squadra più forte che c'è in Italia. E quindi io credo che i risultati che ha fatto in questi anni non siano fuori così scontati e così automatici, perché quando gioca l'Inter, perlomeno nel campionato italiano, sembra quasi che giochi in una squadra di adulti contro una squadra di bambini, si dà per scontato che debba vincere per forza. Però se io analizzo tutte le squadre, diciamo le 3-4 squadre più competitive che ci sono nel campionato italiano, tutto sommato non vedo nell'Inter questa superiorità. Questo lo dico perché io credo che il lavoro che è stato fatto quest'anno da Mourinho lo scorso anno, anche da Mancini precedentemente, è stato un po' sottovalutato, e invece se mi sente? Adesso meno, ma insomma il concetto comunque è chiaro. Secondo lei l'Inter più o meno equivale, insomma l'Inter e chi la inseguo, comunque le altre, diciamo le rivali, si equivalgono da un punto di vista di potenziale. Secondo me ci sono una dozzina di punti, dico così, non, ma magari a prossimo per difetto. di differenza in partenza tra una squadra come l'Inter e una squadra come il Milan, per esempio, piuttosto che come la Roma. Con il Milan c'è già stato un doppio riscontro di un confronto diretto, uno dei quali giocato anche in inferiorità numerica, non dico per l'intera partita, ma quasi. Come me più o meno la pensano, mi pare di ricordare, la maggior parte degli esperti o presunti tali calcistici italiani. La sua, come minimo, è una teoria singolare, insomma è un'opinione singolare, come tale va rispettata. Su questo direi che non ci sono dubbi. Lippi stamane alla stampa estera: Balotelli è un ragazzo che ha grandi doti, sono certo che quando sarà completato il suo percorso di maturazione, che così bene l'Inter sta portando avanti, potrà mettere le sue doti a disposizione anche della nazionale. Per adesso mi par di vedere che anche nella stessa Inter puntini di sospensione. Domanda successiva, Cassano, perché insomma è anche vero che poi la fantasia della categoria di cui faccio parte è quella che è. Cassano chi? Ha risposto Lippi. Chi è Cassano? Mi sfugge, e comunque la sua domanda è un po' datata. Devo dire che a domanda infelice si risponde spesso con appunto si replica con risposta infelice il doppio, e questa certamente Cassano chi lo è dal punto di vista dell'educazione. Riccardo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Proviamo a cambiare sport, dai, parliamo di calcio. Sì. Ascolti, io volevo porle una domanda di questo genere, vorrei una sua considerazione. Non crede che Mourinho stia rischiando un po' troppo, tra virgolette, con Balotelli? Mi spiego meglio. Io credo. Io credo che Balotelli in questo momento sia il più forte calciatore italiano, forse l'unico calciatore italiano, a parte Francesco Totti, quando è in forma, in grado di risolvere da solo una partita. Rischia di uscire dalla Champions, probabilmente, senza un giocatore del genere, ma se succedesse, avrebbe ancora tutti i tifosi dalla sua parte, il presidente dalla sua parte, secondo lei? Secondo me no, secondo me sinceramente no, però non andrei alle conseguenze, cioè, perché sennò poi dopo diventa troppo facile, no? Se stasera l'Inter supera il turno e avendo lasciato a casa Balotelli, poi Mourinho diventa il più grande di tutti i tempi per aver fatto a meno di... Se Mourinho se l'Inter viene eliminata e Balotelli era a casa, Mourinho domani diventa un incapace perché ha lasciato a casa Balotelli. Io la vedrei prima, perché le cose è troppo facile giudicarle dopo. Viste prima, Mourinho secondo me non ha avuto cioè ha sbagliato a non trovare un punto di mediazione, o comunque a non fare in modo che la società potesse mediare in una vigilia così importante. Perché? Ma perché comunque, non so, io il bridge è un ricordo un po' di gioventù, perché sono tantissimi anni che non mi capita di praticarlo. A bridge c'è l'estrema dichiarazione che si può fare valutando le proprie carte, è sur contro, è l'ultima dichiarazione possibile che può essere fatta a un tavolo di gioco. Si sur contra quando si è assolutamente certi al 1000% dal proprio punto di vista che le carte che si hanno in mano sono le carte migliori. Ora, dire sur contro se hai lasciato a casa una carta che ha dimostrato nel recente passato di essere una carta determinante o che può diventare determinante, vuol dire surcontrare senza essere certo di avere in mano le carte migliori. Questo, visto prima, è un errore, a parer mio, di gravità alta. Dopodiché poi i fatti confermeranno questo oppure daranno ragione a Mourinho. I fatti, resterà la certezza di non aver avuto le carte ideali per poter dire sul contro, che è, ripeto, la dichiarazione finale, la massima dichiarazione possibile. E su questo credo che proprio di dubbi non ce ne siano moltissimi. Sentiamo ancora Peter, che ha chiamato la provincia di Rovigo. Buongiorno. Buongiorno Garanzini, mille volte ancora i complimenti, soprattutto a lei a livello personale. Diciamo che in parte mi ha un po' bruciato la considerazione che volevo fare, nel senso, premetto che Mourinho, sono tifoso interista, non mi è assolutamente simpatico. Penso che se mettiamo sulla bilancia siano più le cose negative che positive che ha portato all'Inter. però sinceramente la scelta di Balotelli di lasciarla a casa, e da quello che ho capito cosa è avvenuto a Spanne sentendo lo spogliatoio, leggendo i giornali quello che si dice nello spogliatoio, penso che stavolta devo diciamo considerare positivo l'atteggiamento di Mourinho, perché se anche come dice lei si poteva aspettare giocare la carta Balotelli vista la situazione, però mi dava l'idea che anche la società concedeva, cioè si metteva nelle mani di un 19enne in maniera un po' troppo pericolosa, però è un segnale della forza della società. Sì, insomma. Però alla vigilia di una partita così, se sono la società cerco, è ovvio che se c'è un fatto di enorme gravità destabilizzante allora valuto, se no penso che quel 19enne è comunque uno che la picchia dentro la palla e che l'ha dimostrato anche recentemente, e valuto anche che in questo momento la squadra ha bisogno di uno che possa essere una carta magari alternativa, nessuno discute, titolare, riserva, questo è un altro discorso, ma che Balotelli sia in questo momento una risorsa preziosa dell'Inter mi pare non si possa discutere. Rinunciarci in partenza, beh, è un segnale di forza notevolissimo da parte di un allenatore, però è anche l'assunzione di una responsabilità enorme a parer mio. E comunque, in ogni caso, visto che tu devi cercare sempre di schierare la formazione, di avere a disposizione i giocatori più forti che hai, rimane a parer mio un errore. Il ripasso di ogni giorno, il 16 marzo, affidato a Nicola Filippone. Sembra ieri. 16 marzo 1983. Il cammino dell'Inter di Rino Marchesi in Coppa delle Coppe si interrompe contro il Real Madrid al Santiago Bernabéu. I nerazzurri escono sconfitti nel ritorno dei quarti di finale per 2-1, dopo aver pareggiato per 1-1 a San Siro. A Madrid l'Inter passa in vantaggio nel primo tempo con Altobelli, ma nella ripresa il Real capovolge la situazione in 5 minuti, grazie alle reti del difensore Salguero e del centravanti Santillana. Il Real e Santillana sono stati le bestie nere dell'Inter negli anni 80. Tra l'81 e l'86 i nerazzurri sono stati eliminati 4 volte dalle coppe europee per mano delle Merengues e Santillana è andato a segno in 6 occasioni. Torniamo in compagnia degli ascoltatori per questi pochi minuti finali dell'appuntamento di oggi. Paolo, Napoli, buongiorno. Salve. Dica. Io non l'ascolto spesso. Le chiedo di perdonarmi in anticipo se non fa considerazioni strettamente tecnicamente calcistiche, ma insomma io sono appassionato di calcio in quanto il calcio fa un po' parte della nostra cultura e volevo fare una piccola considerazione. Io non vi dico per quale squadra sono tifoso, perché non è di questo che voglio parlare, voglio soltanto dire che tutti quelli, genio sregolatezza, no? Secondo il toponimo giornalistico, George Best, Maradona, piuttosto che Balotelli, mi stanno simpatici. E premetto che sono assolutamente convinto, cioè sono valutazioni calcistiche quelle di Mourinho e di Lippi a tener fuori squadra Balotelli. Soltanto un'immagine, una suggestione, cioè Balotelli che canta l'inno con la nazionale italiana mi farebbe commuovere. Paolo, sì, avrebbe una suggestione molto forte. Lippi le risponderebbe che Balotelli già lo canta nell'Under 21 insieme a Okaka e a Ogbon, lo ha fatto anche stamani in questa conferenza stampa alla stampa estera. Sentiamo ancora due interventi che arrivano da Londra, che arrivano dagli spogliatoi di Stamford Bridge ieri sera dopo nella cerimonia di vigilia di questa partita. Prima Mourinho. Ti posso spiegare la convocazione degli altri 20 che stanno qua. In una partita così importante mi sembra che è molto più importante i giocatori che stanno convocati che i giocatori che non stanno convocati. Noi sappiamo quello che è successo nel campionato italiano, sappiamo quando è iniziato, sappiamo di che modo una squadra hanno perso punti e altre hanno vinto punti, sappiamo di che modo il campionato in questo momento sta aperto. Al campionato, e devo dire che è l'unico punto in cui mi sento a grande distanza, ma comunque di seguire in parte Mourinho. Invece la vigilia di Ancelotti si è soffermata anche sul grave infortunio a Beckham. Sentiamo. Mi dispiace molto l'infortunio che ha avuto, perché proprio so quanto lui tenesse a questo campionato del mondo. D'altronde l'anno scorso è venuto al Milan proprio per dimostrare di essere in piena forma per la nazionale. Spero che possa recuperare al più presto. Al più presto non sarà certamente per il mondiale, però Capello ha già fatto due righe di conti. Allora, leggo da un'agenzia che stamane, tra i moltissimi messaggi arrivati a Beckham, il più gradito è stato proprio quello inviatogli dal commissario tecnico dell'Inghilterra. Beckham potrebbe partecipare alla prossima Coppa del Mondo nel ruolo di capitano non giocatore, e questo sarebbe da parte di Capello un grande onore davvero tributato a David Beckham. Capello è andato oltre e dopo l'invito in Sudafrica gli ha anche promesso che lo aspetterà per le qualificazioni europee, quindi davvero il trattamento che un campione merita da parte di gente che a calcio ha giocato, come Capello, come Ancelotti, e che magari ha, come dire, linee di comportamento diverse da altri che invece al calcio sono arrivati per via, diciamo, di teoria più che di pratica. Franco ha chiamato da Como, buongiorno. Buongiorno dottore. Dica. Io mi rispetto al suo equilibrio che ha sempre così ogni giorno, di non entrare in polemica con le varie dichiarazioni. Beh, mi esento da commentare le frasi degli interisti sulle eventuali torti arbitrali. Volevo fare invece una constatazione di tipo sportivo calcistico. Un esempio cade proprio con la Juventus, quando Zaccheroni, dopo Palermo-Juve, Juventus-Palermo, o anche l'altro giorno, dice: mancano energie nella squadra, mancano delle reazioni agonistiche, ci sono dei calciatori non in forma. Ma come la Juve è così la nazionale, questo le volevo chiedere, ma perché non usiamo di più le risorse dei giovani? Una Juve che ha un Morrone, un Immobile, società che non possono spendere a giugno anche dei denari per dei giocatori famosi, io chiedo perché non investire su dei ragazzi giovani, e voglio sentire la sua opinione. Grazie. La mia opinione è che il giorno che accadrà sarà sempre troppo tardi, perché e questo vale per tutti, vale per ogni società, vale per la Juventus, direi a maggior ragione, visto che la Juventus a questo punto dovrebbe aver capito che questa è una stagione andata, e che sì, è vero, c'è l'obiettivo del quarto posto, però io, così come ieri ritenevo ingiuste le critiche a Chimenti dicendo doveva giocare il portiere della primavera, sì, in astratto sì, però dato che suonavano come critiche a Chimenti, che non poteva far nulla su quei tre palloni, mi avevano un po' incuriosito, comunque ero contrario, però è vero che invece scelti prima, cioè io credo che ci sarà un esterno, un difensore esterno destro o mezzo esterno e mezzo centrale che può prendere il posto di Grigera, ci sarà in una primavera che continua a dominare il suo campionato da anni, mi pare, e a vincere ogni tanto dei Viareggio, ogni poco anzi dei Viareggio, quindi queste sono scelte che non, sinceramente, faccio fatica a capire. Mi pare che per oggi siamo arrivati alla conclusione, così mi conferma Fabio Cantadori della regia, me lo conferma anche Laura Vanossi, che ringrazio in modo particolare, sicché appuntamento a domani.